Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno e bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni tra storia e musica. Oggi però intanto siamo nel 1990. In quell'anno Caterina Caselli torna sulle scene, lo fa sul palcoscenico più difficile, quello di Sanremo. La sera del 28 febbraio del 90, dopo 20 anni di assenza da protagonista, torna proprio lì, dove tutto era cominciato. Emozionata come al suo debutto, cantava questa canzone. Bisognerebbe non pensare che a te, non pensare che a te, che poi si viva su una stella. Nel fondo volere bene al mondo con me. Allora, signora Caselli, è stato più difficile smettere 20 anni fa o ricominciare oggi? È stato più difficile ricominciare. Ah sì, e perché? Beh, perché a 40 anni, fra poco 44, si vive, diciamo, quello che lei fa in un altro modo. A 20 anni si è più incoscienti di solito e si rischia anche più facilmente. È una scelta più consapevole, più difficile. Esatto. E poi era molto difficile, devo dire, scegliere di farlo in questo modo, certo. Così sportivamente. E devo dire che mi ha molto aiutato, intanto mio figlio è stato il fautore di questo ritorno e quindi già lì sono stata aiutata molto affettivamente, ma poi un mio amico carissimo, un amico di famiglia, Marco Gasparini, che sentendo la canzone mi ha detto: Caterina, perché Sanremo no? E io ho detto: ma sai, lì ti metti a nudo, bersagliata da tutti, insomma è una gara. E lui mi ha detto: ma senti, ma se ti piace, se veramente ti piace, tu vai a Sanremo. E io ho detto: sì. E quella è stata la bolla. Senta, ma quando lei per amore, lo ha detto, ha deciso di lasciare per un po' di tempo le canzoni, ecco, la possibilità di emozione forte che le dava il cantare, come ha fatto a dimenticarla, cioè non averne più bisogno? Ma io partecipavo molto quando per esempio si andava in sala d'incisione o seguivo da vicino quelli che erano i progetti musicali degli artisti che appartenevano, diciamo, alla casa discografica. E quello era un modo di supplire, insomma. E questo era un ottimo modo per supplire. Senta, ma suo marito stava contento o no che lei è tornata a cantare? Non eccessivamente. Non tanto. Senta, lei comunque è tornata a Sanremo, un po' ce l'ha detto, perché è proprio il festival, ma il festival proprio per voler ricominciare da capo? Ma il festival perché io ho cominciato da lì e molto sportivamente, cioè, questo assomiglia molto al mio carattere anche, ma scaramanzia, ma anche assomiglia al mio carattere, in fondo tutto sommato sono partita da lì e perché non ricominciare da lì? Senta, ma oggi a prova finita cosa pensa di sé come artista? Beh, di me come artista penso di poter dare ancora molto. Senta, dopo il suo ritorno a Sanremo, adesso, sente davvero di essere di nuovo padrona della sua vita? Beh, sento di avere una vita che mi somiglia di più e che mi dà molta felicità. Sono più viva, sono molto più viva. Anzi, io vorrei dire alle persone che hanno 40 anni come me, 44 fra poco, e così come nel periodo di Casco d'Oro c'erano tante ragazze che si tagliavano i capelli come me, eccetera, vabbè, questo può essere una frivolezza, ma ricominciare a 44 anni è inebriante e credo è veramente, se ci sono delle signore che hanno la mia età e che hanno desiderio di ricominciare, di fare qualcosa, che lo facciano, perché veramente si ricomincia da capo. Ma il 1990 tra storia e musica arriverà tra poco insieme a Franco Schipani e Alessandra Fiori, che adesso insieme a Alessandra Cravetto fa il punto su questo fine settimana. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Allora, Cravetto, ricominciare a 40 anni. Eh sì. Ma lo sai che c'è un libro che tra l'altro era famosissimo, è del 1984, mi pare, sì. E si chiamava La vita inizia a 40 anni. L'ha scritto un'americana, Kathleen Abel. Però c'era anche un film che era famosissimo, sì, anche quello, di un livello di citazione molto più basso, che invece era La mia vita comincia a 40 anni. E ti ricordi questo pezzo? E oggi è proprio una giornata storica. Ci sto per fare l'amore con la donna più bella. Con la donna più bella che mi è mai capitata in vita mia. E hanno fatto presidente del consiglio un socialista. E allora, certo che me lo ricordo, perché allora il film è quello di Vanzina con Carol Alt, che era appunto la donna più bella del mondo. Bellissima. Invece il presidente del consiglio naturalmente è Bettino Craxi. Esatto, brava, molto preparata quindi anche sulla côté popolare. Ma bene. Io non so neanche che vuol dire côté, queste parole paté, queste parolacce che dici tu, io non le capisco. Senti, ma a proposito di presidenti del consiglio, ma facendo riferimento alla Caselli, quanti anni ha Renzi? 41 mi sembra. Ecco, quindi la vita inizia a 40 anni, ma per alcuni forse a 41 finisce. Ma no, Cravetto, invece guarda che ha appena iniziato. Ma a fare cosa esattamente? Perché non è chiarissimo in questo momento. E invece no, perché a volte la sconfitta aiuta, molte volte è un'occasione per ricominciare, vedrai. Ah, allora mi dai una speranza, perché sai che io ho la stessa identica età di Renzi, siamo tutti e due del gennaio 75. Ergo, sapevi quanti anni aveva, quindi volevi arrivare qui. Ho messo alla prova. Esatto, ma soprattutto, quindi ti ricandidi. Quando si vota, Cravetto? Allora, prima di ricandidarmi, come sai, devo cambiare la legge elettorale. Perché la scrivi tu? Ma scusami, se la Boschi ha 37 anni, ha riscritto la Costituzione, io a 41. Ah, puoi scrivere quella europea. Però attenta, cosa. Attenta, perché poi te la bocciano. Ah, dici? Comunque, senti, in attesa della tua legge elettorale, ti voglio dire che ci sono dei casi in cui si inizia molto molto presto, perché c'è una ragazza. Che quanti anni ha? È una ragazza perché ha meno di 30 anni. Ed e è quindi una ragazza. È una ragazza, è una ragazzina, giovanissima. Okay. È una grecista comunque, è una grecista che è riuscita nell'impresa di scrivere un saggio che ha conquistato i lettori facendoli appassionare appunto al greco. Brava. Andrea Marcolongo è una donna, una grecista, non ha ancora 30 anni. È stata allieva della scuola Holden di Baricco e ha lavorato come consulente di comunicazione per aziende e politici. E adesso ha scritto un libro molto particolare, che ha avuto un grande successo. 8 edizioni e i primi posti nelle classifiche. Si tratta della lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco. Andrea, tu hai fatto il liceo classico. Intanto, eri brava a scuola? Sono diventata brava quando ho iniziato un po' a sfidarlo il greco, ma diciamo non è che a 16 anni declamassi Platone ad Atene. Ho fatto la mia sana fatica al liceo classico. Andrea, tu ti sei innamorata del greco al punto da dire: a conti fatti è l'amore più lungo della mia vita. Ma cosa ha fatto scattare questa scintilla? Beh, lo prenderei con ironia, pensando, insomma, immaginatevi le altre di storie della mia vita. Ma la scintilla è veramente dell'amore con il greco. È stata, è un po' come ci si innamora degli esseri umani, ovvero sì, c'è stato il colpo di fulmine proprio quando ho iniziato a pensare come pensavano i greci, ma poi c'è stata la costanza. Tu scrivi che lo studio del greco contribuisce a sviluppare il talento di vivere, di amare, di faticare, di scegliere e di assumersi la responsabilità di successo e fallimenti. In che modo? Innanzitutto perché il greco non è una lingua facile, è così come non è facile la vita, perché il greco non è veloce, richiede tempo, e la vita non è veloce e i fallimenti, i successi della vita richiedono tempo. Mi fai un esempio concreto del modo in cui studiare il greco contribuisce a sviluppare il talento di vivere? Io per esempio quasi tutti, me compresa, al primo compito in classe di greco prendiamo 3, perché arriviamo con la nostra mente ancora ferma alle scuole medie, pensando che sia tutto semplice. Il greco ti apre la porta al primo fallimento, perché richiede un... Però tante cose aprono la porta al primo fallimento e non tutte ti insegnano a vivere. Certo, anche di matematica apre la porta al fallimento. Il problema è che il greco è così lontano da noi, è così difficile, che sembra la prima reazione è di dire ok, cambio scuola. Tu hai scritto anche: ho persino fatto pace con il mio nome da maschio, Andrea appunto, causa che pensavo essere ormai persa. Perché il greco ti ha aiutata? Beh, intanto perché il greco ha tre generi, ma questo anche sono maschile, femminile e neutro. E io cercavo una risposta disperatamente, una risposta logica, che non c'è, perché ogni lingua, compreso il greco, è libera di dare il genere che preferisce alle parole. Così il mio nome, che comunque significa maschio, perché viene dal greco aner, è maschile in italiano, ma poi diventa femminile appena varco il confine. Dando per acquisito l'inglese, tra il greco e un'altra seconda lingua, tu che cosa faresti imparare ai tuoi figli? La lingua che più serve a loro per comunicare, la lingua che più gli serve per descrivere loro stessi. Tu ti sei chiesta, immagino, le ragioni di un successo così grande per un saggio che parla di una lingua difficile come il greco. Cosa ti sei risposta? All'inizio ero sopraffatta e poi la dicevo in latino, quindi è che è una cosa formidabile, cioè che sono cura, paura e gioia insieme, e non riuscivo a trovare una risposta. E ora che ho incontrato così tante persone mi rendo conto che c'è qualcosa di più, che è un po', perché ricevo lettere dai 14 anni fino a persone di 80 anni e quasi tanti non hanno studiato il greco, quindi mi rendo conto che questo libro è un po' come uno specchio, perché non è un saggio o una grammatica o un manuale di greco, è un racconto del greco, e quindi diventa uno specchio in cui ciascuno legge la sua vita proprio attraverso questo racconto. Quindi nessuno mi chiede mai di greco quando mi scrivono le domande, ma mi chiedono di se stessi. Senti, qual è la peculiarità, l'anima del greco che è più difficile da capire oggi nel 2016? E sicuramente il rapporto che ha col tempo, ovvero il fatto che la categoria temporale in greco è secondaria. C'è una cosa diversa che l'italiano non ha, che è l'aspetto, ovvero valutare le conseguenze delle azioni su di noi stessi. Quindi il presente è qualcosa che si sta vivendo, ma porta poi ad una conseguenza che è il perfetto, ad un risultato. Banalmente, se io sto vedendo, il risultato è che so perché ho visto. Cioè, quindi come diventiamo grazie alla nostra vita e a quello che ci accade, mentre certe gioie, certe azioni sono all'auristo, ovvero senza tempo, noi siamo prigionieri dell'orologio. Tu hai neanche 30 anni. Sì. Hai un sogno da esprimere? Oh, certamente, fare una famiglia, avere un figlio. Andrea Marcolongo, La lingua geniale, 9 ragioni per amare il greco, la terza. Certo che se sotto i 30 anni ha scritto un libro sul greco antico, adesso, come ha detto, non le resta che pensare ai figli, alla famiglia. Sì, se lo merita. In che senso? Come dice Eros, in ogni senso. In ogni senso. Senti, un po' come aveva dichiarato il ministro Boschi. Oggi ce l'hai, eh? No, così mi è rivenuta in mente. Aveva fatto un'intervista a Vanity Fair nel 2014, che sicuramente avevi letto. Certamente. In cui diceva che sognava un compagno, sognava di avere tre figli, una relazione stabile. Era stufa di lavorare troppo, di tornare a casa tardi dal lavoro, entrare in una casa silenziosa e vuota e ad aspettarla solo una tazza di latte. Poteva fare la spesa, comunque insomma dove vuoi arrivare? Voglio arrivare che secondo me adesso avrà molto più tempo. E quindi è il momento giusto per farlo. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopo guerra, pettinate come lei. Fiori, siamo già in piena atmosfera natalizia, te ne sei accorta? Ma no, scusa, tu non te ne sei accorta, guarda che alce che ho sul golf, ma più di questo? Perché ero concentrata sull'alce che c'hai dall'altra sulla testa, parte. Vuoi dire? Ma quello perché distoglie l'attenzione, guarda quello che ho sul golf, è più bello. Senti, ma tu la cena di Natale la prepari tu con le tue manine o no? Ma guarda, diciamo che vado dalla mamma, perché invece tu la prepari, scusa? No, anch'io vado dalla mamma, però proprio perché vado dalla mamma per la cena di Natale, quest'anno le faccio un regalo. Come sei cattiva, di solito non glielo fai un regalo. Gliene faccio anche più di uno. Però è proprio un regalo per la cena di Natale. Immagino, cuoco a domicilio. Molto meglio. Allora, dato che io penso sempre a lei, si tratta di pulizia a domicilio. C'è una app che si chiama Helping, che ti manda a casa una persona specializzata nelle pulizie e la puoi chiamare anche all'ultimo momento, quando proprio quando serve. Sei disperata. Ma questa ma anche la domenica, non solo Natale, sempre. Natale è utilissima anche per me. Sempre. Ma la cosa fantastica è che puoi anche richiedere una persona specializzata nelle pulizie più difficili, tipo il forno, le finestre, il frigorifero. Non ho capito. Non ho capito. Quale parte? Forno, molte cose. Frigorifero. Ma perché il forno si pulisce? Il forno si pulisce e finalmente con Helping, questa app, ti permette di fare le pulizie di Pasqua anche a Natale. Evviva! oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Luca Alessandrini, 30 anni, marchigiano, ha rivoluzionato il mondo degli strumenti musicali creando un prototipo di un violino in seta. Luca, un violino che invece che essere costruito in legno è fatto di seta. Ma perché proprio la seta? Quali qualità ha la seta? La seta è sicuramente un materiale estremamente interessante, è molto resistente, ma è elastico e è leggero. Che tipo di seta hai usato? La seta che noi tutti conosciamo, quella che indossiamo, e con diverse tecniche di tessitura, ma anche una seta molto particolare che è quella di ragno, che è uno dei materiali più forti al mondo, a dire la verità. E dove le hai trovate queste due sete? Chi te le ha fornite? Seta regolare è stata donata da Taroni, veramente uno storico tessitore comasco, mentre la seta di ragno mi è stata donata dall'Università di Oxford, che ha proprio allevano ragni, in particolare dei ragni australiani, che si chiamano Golden Orb Weaver e producono questo materiale straordinario. È un materiale senza prezzo, ma addirittura è stato applicato per quanto riguarda del suit che sono bulletproof, quindi a prova di proiettili, da quanto è resistente. Ma prima di arrivare alla seta, hai testato altri materiali con cui costruire il violino? Tantissimi, sono partito in maniera totalmente, insomma, da un punto di vista molto lontano, che era quello addirittura di coltivare batteri nel materiale, batteri molto particolari. Poi sono chiaramente, insomma, lavorato con le bioplastiche, biopolimeri, resine biocompatibili, ma anche poi sono provato al mondo delle fibre, ho cominciato con le fibre vegetali ma anche di origine animale, appunto come la seta. E invece perché hai deciso di provare a rifare proprio il violino? Tu suoni il violino? No, sono diversi strumenti musicali, ma non in maniera amatoriale, ma non il violino, no? È stata una delle challenge molto interessanti da fare, ecco, insomma, per dire la verità è stata una vera e propria provocazione, ecco, che poi ha funzionato molto bene. E però è uno strumento immutato da 400 anni, è uno degli strumenti più iconici, ha una cultura enorme dietro e soprattutto uno dei più difficili da far suonare decentemente. Quindi alla fine il suono del tuo violino in seta è simile, è uguale, si avvicina a quello di un violino in legno? Da neofita, quali sono dal punto di vista violinistico, difficilmente riuscire a distinguerli. Chiaramente però si parla di prototipi. Dal punto di vista del registro grave è estremamente ricco. Chi è che ha testato il tuo violino in seta? Un'associazione che si chiama Anlai, capeggiata da Gualtiero Nicolini, che mi ha fatto da ambasciatore facendomi lavorare con una ventina di liutai cremonesi. E cosa hanno detto i liutai? Grande entusiasmo, molta curiosità, sicuramente il materiale ha delle proprietà interessantissime. So che il tuo violino è stato messo a confronto anche con uno Stradivari a Londra, com'è andata? Uno dei sostenitori del progetto che, insomma, ho conosciuto dopo, quando i prototipi erano stati realizzati, sono stati suonati da questo violinista che si chiama Peter Shepherd Scudder, professore di violino alla Royal Academy of Music. Mi ha invitato a dare delle lezioni di acustica dei materiali. Durante uno di questi, a mia insaputa, l'ha confrontato con uno degli Stradivari presenti nella loro collezione e dice, pubblicamente ammesso che il mio prototipo ha sul registro grave addirittura un'ampiezza armonica ancora più ampia di questo specifico Stradivari, che si chiama Viotti ex Bruce, su certi registri, ma su altri magari un pochino più carente. Quindi si parla di una cosa estremamente promettente. Arriverà, prima o poi arriverà. Chi lo sa. Senti, l'idea del violino in seta è nata appunto a Londra circa un anno fa, mentre stavi facendo un master in cosa? Un doppio master tra Imperial College e Royal College of Art. Il master si chiama Innovation Design Engineering, ovvero ingegneria del design di innovazione. E il tuo violino era un progetto finale di questo master e hai sbaragliato tutto arrivando primo. Che cosa hai vinto? International Student Innovation Award, quindi sono stato nominato lo studente internazionale più innovativo di Londra nel 2016 e a parte il riconoscimento, sì, insomma, sono arrivati 10.000 sterline, ancora devono arrivare, ma insomma arriveranno. E oggi cosa fai, Luca? Sei tornato da Londra, stai in Italia, stai lavorando appunto sul tuo violino, che fai? Beh, questo progetto è diventato una startup, c'è la mia volontà, la mia grandissima volontà di gettare le basi per farla, insomma, per sviluppare questo progetto, questa tecnologia, che è diventato un brevetto lo scorso giugno, però qua in Italia, dove la liuteria è sicuramente molto più forte di quella del mondo inglese, ecco. Certo, ma la seta, questo materiale che hai trovato, c'è un mix tra la seta e la seta di ragno, potrebbe essere utilizzata anche per costruire in un futuro altri strumenti musicali? Beh, come detto, si parla di un brevetto che non include ovviamente solo seta e seta di ragno, ma tutto un mondo di fibre vegetali che hanno proprietà acustiche meravigliose, fino alla customizzazione delle proprietà acustiche di un materiale, quindi le applicazioni sono molteplici. Una chitarra sarà pronta prima della fine dell'anno, ma ho realizzato anche una cassa acustica, un amplificatore per basso con fibra e seta di carbonio. Sono stati fatti dei test all'Imperial College che hanno dato risultati molto molto interessanti, ma anche pannelli per acustica ambientale, cuffie, insomma tante cose. Detto che bello il violino di seta, da te non mi aspettavo niente di meno, guarda. Vero che è chicchissimo, poi se lo vedessi dalle foto è tutto beige, molto cravetto. Ma quindi parliamo di un altro enfant prodige, l'ho esatto, detto bene, ti piace? Esatto, sì, a 30 anni, come siamo vecchi. Parla per te, scusa. Però di giovani, anzi di giovanissimi, oggi ci parla anche la nostra critica cinematografica. Critica. Che poi sono io. Buongiorno Donatella. Non perdiamo tempo perché oggi ti devo dire un sacco di cose. Vado? Vada, prego. Allora, prima di tutto che ho l'influenza. Ah, e mi dispiace, ma è andata al cinema con l'influenza. E certo, ci andavi tu a fare la rubrica. Ho anche litigato con uno che non voleva che starnutivo. Hai capito? Civile. Beh, no, Donatella, magari aveva paura di essere contagiato. No, diceva che dovevo usare il fazzoletto, ma è retorico, che col fazzoletto poi non vedo il film, no? Certo, guardi, è proprio retorico, è retorico. E poi volevo dire che, come al solito, sì? Il film che ho detto la settimana scorsa è primo in classifica. Perciò voglio fare una piccola pubblicità a questo fatto, perché magari c'è in ascolto qualche tizio che fa film e mi dai soldi per dirli nella rubrica. Ma no, quindi... Donatella, ma mi scusi, ma non si può fare questa cosa. La tua invidia ti divora, io lo capisco, no. Allora ti dico il film, ecco, di questa settimana. Brava. Ah. Questo è il vostro primo vero test. Ricordate i miei insegnamenti. Hanno gli odori. Che cos'è la Coca-Cola? Acqua avvelenata. Hai capito? Si chiama Captain Fantastic. E anche se sembra di supereroi, non è di supereroi. Ah. Parla di un padre e di una madre che crescono i figli nella foresta, lontano dalla società. E allora loro diventano bravi a procurarsi il cibo, a studiare, insomma diventano speciali. Poi però muore la mamma e qui si piange, te lo dico. Me lo dice. E allora devono partire e andare nella società. Però le cose non funzionano tanto bene. Infatti loro non sanno le cose, tipo che non conoscono la Coca-Cola. Beh, è un grande problema. Donatella, io immagino che venga messa in discussione il tipo di educazione, cioè, sarà un discorso generale sull'educazione che diamo oggi ai nostri ragazzi. Scusa, ma io cosa la faccio a fare la rubrica se tu immagini? Non devi immaginare, te lo dico io. No. Perché se tutti allora si mettono a immaginare, io dico solo il titolo e aspetto le vostre immaginazioni, va bene? Facciamo così, allora. Va bene Donatella, non immaginiamo, no? Io non volevo contrariarla. Adesso ovviamente vi parlo del cast e della pena. Della pena soprattutto, sì. Zitta, ti dico la pena prima. Allora, vale la pena vedere questo film? Sì, vale la pena, perché è un film emozionante e anche di piangere e abbastanza anche di ridere. E alla fine affronta con intelligenza il problema dell'educazione. Bene, bene Donatella, posso chiederle il cast io? Che stai ridendo? No, le chiedo, visto che oggi si fa le domande e si dà le risposte e ricorda qualcuno, sì. Io mi chiedevo se posso chiederle il cast. Allora, sì, il film è di Matt Ross, sì. che è un nome facile, sì. Poi c'è quello che fa il padre, che si chiama Viggo Mortensen. Grazie Donatella. Posso dire solo una cosa veloce? Velocissima. Hai un film che vuoi far diventare prima in classifica? Chiama Donatella! Welcome back, Frankie Schipani, eccolo. Ciao Frankie. Ciao Ale, ciao Ale, ciao Ale. Frankie come back. Come back Frankie. Scusa Frankie, ma noi siamo per andare nel 1990, però tu ci porti indietro nei 70. Ha fatto confusione? Non ho capito. Ma non è confusione, perché Baby Come Back è un brano dei Player. E sapete chi era il bassista dei Player? No. Ron Moss, Mascellone, Ridge. Infatti, Beautiful Imperversa sui nostri arriva teleschermi. Arriva in effetti nel 1990. Noi c'eravamo già. Ma sapete, in quegli anni quanti bambini piccolini sono stati chiamati Ridge? Tanti. Beh, adesso li chiamano Chanel, per cui... Io non ho capito però perché lo dici con questo tonetto. Perché, no, perché... tonetto alla cravetta. Tonetto ogni della tanto ritorna. Perché scusami, Chanel... è boro. No, è chicchissimo. Ah, ecco, è chicchissimo. Perché altrimenti io ti dico, scusa, perché Chanel è boro e leone e oceano, per esempio, sono chic. Ma secondo me suonano meglio, non trovi? Ma dipende, per esempio, a voi a casa non vi chiamano Alessandra, vi chiamano Ale tante certo. volte. Ecco, oceano. Come lo chiamano a casa? Oce? Oce. Ano? Cioè, no, ano, non lo so. Bene. Io su questa vi saluto. Buon 1990. Franky, sei pronto ad andare nel 1990? Non vedevo l'ora, Alessandra. E allora, subito dopo la pubblicità, 1990. A dopo.